Marta Cagnola. Buongiorno, ci siamo con il nuovo sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale e questa sarà la guida per orientarci negli acquisti mentali in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento però con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, ve lo prometto, ma voi tenetemi compagnia. Ci sono due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS, lo sapete qual è il numero di Radio 24, 349 238 6666, ma anche il mio account di Twitter, siete già abituati a usarlo con RadioTube, chiocciola Marta Cagnola, e l'hashtag, sempre per chi usa Twitter, il sabato del villaggio è un po' lungo come titolo, quindi usiamo le iniziali cancelletto ISDV. Ma di cosa parleremo questo pomeriggio? Gli anni 80 in musica e non solo, tra effetto nostalgia e voglia di riscoprire belle cose, facciamo un passo indietro per ritrovare lo slancio in avanti. Tornano grandi gruppi e sapremo tra poco chi sono. Le tecnologie, abbiamo lo smartphone sempre con noi e sappiamo quanto soffriamo per la batteria che dura pochissimo. La soluzione ce la svelerà Enrico Pagliarini, col quale parleremo anche di ebook reader e anche delle app del momento. Il cinema, il successo enorme e inatteso del giovane favoloso di Mario Martone, e poi tutti i consigli per le uscite del weekend con Franco D'Assisti. La TV, ma qual è il fenomeno di questo inizio stagione? Lo scopriamo subito, lo stiamo già ascoltando. È Lorenzo, si chiama Lorenzo, canta Impossibile sul palco dell'X Factor Arena. Beh, X Factor è davvero il fenomeno del momento in fatto di televisione. La seconda puntata dei live è stata vista su Sky 1 da 1.100.000 spettatori medi, con il 4,5% di share, picchi del 6-18%, con una crescita del 66% rispetto allo scorso anno, con oltre 1.000 tweet al minuto. È stato il programma più social della televisione. Perché stiamo ascoltando Lorenzo tra i concorrenti di quest'anno? Perché secondo i bookmaker è il favorito, seconda lui è Emma, dopo il secondo live si sta avvicinando, ma insomma le scommesse puntano tutte su Lorenzo. Quale sarà il segreto di X Factor? Beh, abbiamo provato a chiederlo a uno dei protagonisti di questo talent show, lo abbiamo chiesto a Mika. Ecco, secondo Mika, qual è il segreto di X Factor? È un prima devo dire che secondo me hanno fatto delle belle scelte e anche hanno continuato a prendere rischi con questo show. Allora non sono caduti, si dice, nel format, non hanno per questo il show ha mantenuto una freschezza, e questa è una cosa molto importante. Allora questo movimento, questo this kind of inertia, the potential is kept on growing, è una cosa che cambia sempre, e secondo me per questo ci sono questi numeri che ogni settimana sono ancora più forti che l'altra settimana. Questo è molto molto impressionante, e anche, ma si vede in tutti i sensi, le scelte, la giuria, anche hanno preso un enorme rischio con me l'anno scorso, e anche io ho preso un enorme rischio, ma devo dire che ho preso questa opportunità anche quando mi hanno chiesto prima in altri paesi dove parlavo già la lingua, ma ho preso questo rischio perché ho detto loro hanno le palle e allora questo mi piace, voglio farlo, proviamo. E non hanno, hanno dimostrato che veramente hanno le palle. E se Lorenzo è il fenomeno dell'X Factor italiano, almeno per ora, perché siamo solo al secondo line, lui è Andrea Faustini, che è un ragazzo italiano e che era stato lanciato da Ti Lascio una canzone, ma è il fenomeno dell'X Factor inglese, cioè un fenomeno da esportazione, perché lui ha deciso di partecipare direttamente all'X Factor inglese e di diventare famoso in Gran Bretagna. Ed è già una sensazione, già famosissima la sua felpa con un carlino, e quindi lui è diventato l'amico dei cuccioli, dei cagnolini, ma con una voce che, sentite, mica male, insomma, è già un fenomeno oltreoceano. Ma ce l'abbiamo un esperto di musica in studio, e è anche qui per svelarci dei segreti. Buongiorno a Max Zoa. Buon pomeriggio. Ciao Marta. Intanto ti chiedo cosa ne pensi di questi talent show, di questi due talenti. Vabbè, il talent show in generale è frutto dei tempi, no? Insomma, la televisione da anni sposa il reality. Sì. E il reality che ha funzionato e funziona anche a bassi costi, perché poi in reality una volta al sabato sera c'era Fantastico, certo. No? E costava un botto di soldi, le ballerine, adesso invece esatto. basta un po' meno, e quindi praticamente è un po' la musica a disposizione della televisione. I miei anni, gli anni 80-90, erano la musica che era un plus, no, per la televisione, con il Festival Bar e il Disco per l'Estate. Adesso si è ribaltato il concetto, il vantaggio è che si scoprono campioni. È innegata il talento, no, dei ragazzi, che è superiore certamente agli anni passati. Hai detto Festival Bar e Disco per l'Estate. Tu il Disco per l'Estate l'hai vinto? Sì. L'hai vinto con il tuo nome d'arte, che adesso è tornato, perché per qualche anno l'avevi messo nel cassetto. Da parte, perché avevo dell'altro da fare. Avevi dell'altro da fare, adesso sveliamo. Cosa avevi da fare? Binario. Beh, binario. Insomma, un successo dopo l'altro, poi ti sei distratto un po', adesso spieghiamo perché, però... Tornano i binario, sì, e tornano. I binario torna binario. Non lo diremo mai, non lo sveleremo mai, questa cosa. Se è i binario o binario. Era come gli 883, ti ricordi? Esatto. Quando Max Pezzali era rimasto da solo, non lo so, rimane un mistero. È un marchio. Allora, io volevo dire che c'è un segreto per cui la sigla del Sabato del Villaggio è la sigla più bella del nuovo palinsesto di Radio 24. Non c'è proprio alcun dubbio, perché questo è il nuovo singolo di Binario, Soltanto un'idea. Ce l'abbiamo solo noi al Sabato del Villaggio. Ce l'abbiamo solo noi al Sabato del Villaggio come sigla. Sbadato che sono davvero, se ancora usi sensi come fanno tutti. Perché se ci penso so bene che tu sei il mio tatto, il mio gusto e poi il resto. Dobbiamo immaginarci che ci sei tu tra i fumetti che la canti, perché il video è così, sei sì. Un fumetto, la canti. E quindi i nostri ascoltatori saranno ormai abituati a sentirla, certo. A breve, perché anche la sigla del Sabato del Villaggio, Soltanto un'idea, che è un pezzo bellissimo, so che non bisognerebbe dirlo, però a me è piaciuto. Vabbè, veramente è piaciuto. Tanto. Cosa hai fatto in questi anni oltre a fare... Ho avuto tante idee, è l'ultima. Perché Max Zoara, autore di Soltanto un'idea, che noi continuiamo a sentire sottofondo, però adesso durante la viabilità vi posto il link del video. Così okay. Vi guardate il video e ve l'ascoltate per bene. Max Zoara ha anche scritto, lo sveliamo, chissà, secondo me molti ascoltatori se lo sono chiesto in questi anni, ma chi scrive le sigle di tutte le trasmissioni di Radio 24? Max! Eccolo, finalmente! Cioè dall'inizio, cioè da ancora prima che nascesse Radio 24, 15 anni fa, li abbiamo appena festeggiati. È vero. Tu già scrivevi le sigle? Sì, è una soddisfazione, perché una sigla che dura 15 anni come il GR24, ad esempio. E la sanno cantare tutti, secondo me, i nostri ascolti. No? Nata su un'intuizione del momento, perché poi quando si fa musica non c'è un posto per ispirarsi, no? Non è, sfatiamo anche il fatto che uno davanti al mare inizia a scrivere canzoni o in spiaggia. Cioè potevi dire che tu la sigla del GR di Radio 24 te la sei immaginata, esatto, su una spiaggia di coralli? No. No, ero nel mio garage che stavo mettendo a posto scatoloni e ai tempi l'editore, no, che era un imprenditore genovese, insomma, mi ha chiesto di iniziare questa avventura con Radio 24, che poi è diventata Il Sole 24 Ore, e mi ricordo quando ho fatto sentire la sigla era un po'... un po' troppo avanti, 15 detto, anni fa, ed eravamo tutti un po' preoccupati. Poi gli ho fatto sentire il famoso Melody Logo. Si chiama Melody Logo, cioè come il marchio, il logo però musicale. Esatto. Melody Logo, che quindi tu ora metti in tutte le sigle poi di Radio 24. Chiaro, che determina un po' il sound, no? di Radio 24. Senti, una cosa carina invece, ecco, raccontami un po', ti voglio chiedere un po' di segreti. Dopo qualche anno, insomma, sono di nuovo qui, no? Per dare linfa vitale alle musiche, ai programmi nuovi di Radio 24. E quindi abbiamo fatto la nuova sigla di Minoli, di Giannino, insomma, e via dicendo, fino ad arrivare al sabato del villaggio. Volevo rifare la sigla del GR. Hai detto, cambiamo, 15 anni, per i 15 anni facciamo una sigla nuova del giornale radio. Secondo te mi hanno dato il permesso di cambiare la mia sigla? Ma io sento sempre la stessa. Non si può neanche toccare. Che vuol dire che squadra che vince non si cambia, perché questa sigla è bellissima e quindi non si può cambiare la sigla del GR24. Però per noi compositori che abbiamo sempre voglia ti verrebbe voglia di... Ho un'idea, ho un'altra idea. Un'altra idea, invece la sigla non si tocca. Senti, dimmi le sigle che ti sono piaciute di più in questi anni, anche perché poi il palinsesto cambia e quando cambia la trasmissione inevitabilmente anche la sigla non si sente più. Beh, la versione di Oscar mi piace molto, quando la sento, la musica della versione di Oscar. Mi piace lo sport, mi piacciono tutte, sono, insomma, quando le scrivo, dai, faccio fatica a dirti qual è. Sono tutti figli che nascono nel mio studio e quindi sono tutte belle. Dai, soltanto un'idea, è la sigla del tuo programma probabilmente dà quella freschezza che nel weekend ci vuole. Infatti sveliamo, perché io sono sicura che la curiosità di capire come nascono le sigle ci sia, insomma, prima di andare a ributtarci nelle nuove tendenze, augurandoti che poi soltanto un'idea diventi una grande tendenza, anche perché adesso c'è solo il singolo, però poi arriverà l'album, arriverà il libro, poi ti ospiteremo ancora. Come si fa una sigla? Si controlla qual è il mood, lo spirito, i contenuti di una trasmissione? Innanzitutto si parla col conduttore. Ah, certo. Come abbiamo fatto di te qualche giorno fa. È vero, no? Abbiamo parlato. Quindi sì. Mi racconti il tuo programma, mi spieghi, no, dove stai andando come linea editoriale, e poi io entro in studio e in totale libertà realizzo la sigla, che poi dopo necessita di stacchi, di melody, logo, finale, no? E quant'altro. Una cosa carina che mi è successa: un giorno ero in metropolitana, no? Uh-huh. E è squillato un telefono e c'era un signore che aveva una sigla di Radio 24. Non ci posso credere, non lo potrei fare nemmeno io, che sono qua da 14 anni e mezzo. Cioè, si era messo una sigla di Radio 24 come... Sì. Adesso la musica si sfocia in tante situazioni, certo, no? Dal CD al vinile, certo. Fino, non dico volgarmente, ma alla fine, no, anche in una suoneria, insomma, può scendere. No, ma certo, però anzi è un sintomo di grande tendenza. Ti sei emozionato? Mi sono emozionato perché ho sentito tararana, e lui: pronto, amore? No, non ci posso credere. Ma non l'hai fermato questo signore? Non hai avuto la tentazione di dirgli: sa che l'ho scritta io? No, vabbè, è come le pubblicità. Sono partito col Cuore di Panna, Ferrero, e quindi tante musiche, Baci Perugino, un bacio, qualcosa, certo, di più. Sono diventate famose e mi diverte, no, sentire... Mi piace svelare questi segreti di Radio 24. Le musiche, anche delle pubblicità, divertente. Ti danno un oggetto, ti danno il barattolo della cioccolata e tu lo devi guardare e scrivi la musica. Meraviglioso. Intanto chiedo a Valeria in regia se ci rimette un po' di soltanto un'idea, che a me piace un sacco questo, certo, pezzo. Ce lo teniamo come base. Ce lo teniamo. Eh beh, sì, perché qua poi è una trasmissione, è un brano che ci accompagnerà, io spero, per moltissime puntate, spero per tantissime puntate, ma sicuramente per tutte le puntate del Sabato del Villaggio. Così adesso avete anche scoperto qual è il segreto dietro le sigle di Radio 24 e dietro la sigla del Sabato del Villaggio, che appunto vi accompagnerà tutti i sabati dalle 15 alle 18. Io vi ripeto il nostro numero per gli sms, lo conoscete, 349 238 6666, ma anche il mio account di Twitter, @MartaCagnola, perché sono contenta, molti amici mi stanno già scrivendo, mi stanno twittando complimenti sulla fiducia, perché abbiamo appena iniziato, e poi gli ascoltatori che stanno cominciando a far sentire la loro presenza, a far sentire, insomma, che ci terranno compagnia fino alle 18. Di cosa parleremo? Io ve l'ho detto, parleremo di tendenze, di consumi e daremo consigli in fatto di cinema, di musica, di serie TV, insomma in fatto di musica ne stiamo già dando una che è soltanto un'idea di binario, io continuo a ripeterlo perché è un amico, però sono contenta che sia anche qua. Affiancarti su musicali. Io ti terrei con me perché tra poco parliamo di un argomento del quale so sei molto preparato, non solo perché si parla di musica ma si parla di un fenomeno molto particolare. Vabbè, ne parliamo tra poco perché è il momento del traffico. La sigla è sempre tua. Beh, insomma, non c'è la musica, ma il traffico c'è. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme con il sabato del villaggio, grazie appunto a chi ci sta mandando i suoi sms e i tweet, a Marta, Martinside, ai nostri amici, a Ivo Mirko, a GaiaItalia.com, che ci stanno anche suggerendo per tutti coloro che sono in viaggio e dicono che dove sono non si prende bene Radio 24, che comunque c'è sempre la app che funziona benissimo. Ma io vorrei da voi anche i vostri consigli per gli acquisti mentali, tutto ciò che a voi piace particolarmente in fatto di TV, di musica, di serie, di cinema, insomma noi siamo pronti per ascoltare tutti i vostri consigli e spero che voi siate contenti di ascoltare i nostri. Adesso parliamo di musica perché, insomma, lo diciamo spesso, dagli anni 80 non si esce mai, sarà l'effetto nostalgia, fare un passo indietro per ritrovare lo slancio in avanti, insomma tanti artisti di quell'epoca ritrovano un grande successo e tornano a fare sensazione. Nothing left to make me feel small. Piacerebbe sentirla tutta, è una delle mie canzoni preferite degli Spandau Ballet ed è Gold. Perché parliamo degli Spandau Ballet? Perché insomma, ve l'ho detto, noi parleremo tutti i sabati di tutto quello che è sulla bocca di tutti, tutto quello che fa particolarmente tendenza. Dagli anni 80 non si esce mai, degli anni 80 si parla sempre. Qualche giorno fa a Roma hanno provocato il delirio. Al Festival del Cinema di Roma c'è stata l'anteprima di questo film, Soul Boys of the Western World. È il documentario che racconta proprio la storia della nascita degli Spandau Ballet. Un film particolarmente divertente, appassionante, anche commovente, che è stato un evento per soli 2 giorni nei cinema. Ma io ho la sensazione che tornerà di nuovo perché un sacco di persone mi dicono: me lo sono perso, cosa devo fare? Me lo sono perso. Se l'è perso anche Max Zoara che è in studio con noi, perso. Se l'è perso. Abbiamo un'espertissima, io credo sia la maggiore esperta al mondo degli Spandau Ballet, anche più esperta di loro, e ci aiuterà a capire perché questi anni 80 sono tornati o sono sempre dentro di noi. È un'autrice televisiva, un serissimo critico musicale, ma anche una pazza degli Spandau Ballet. Buongiorno Chiara Di Giambattista. Buongiorno Marta Cagnola, buongiorno Max, buongiorno ai vostri ascoltatori. Io do subito anche l'account di Twitter di Chiara, che è The Real Chiara DG, come Di Giambattista, perché lei quando ha aperto Twitter ha visto ha fatto l'account uguale a quello subito, l'account Scopriamo uguale a quello di Martin Kemp, The Real Martin Kemp, The Real Chiara DG. Chiara, intanto io te la faccio subito questa domanda da 10 milioni di dollari. È il ritorno degli anni 80, sono gli anni 80 che sono sempre dentro di noi. Secondo te questo successo, in particolare degli Spandau Ballet, in particolare il delirio che hanno provocato a Roma, che cos'è stato, Chiara? Io credo che, guarda, si tratti principalmente del fatto che comunque ci sono delle band, ma gli Spandau come i Duran Duran, come altre band nate negli anni Ottanta, che comunque fondamentalmente avevano un grande valore musicale, avevano un grande spessore musicale. Oggi noi siamo abituati a musica prodotta anche molto, che rapidamente va in alto e tanto rapidamente poi si esaurisce. Mentre invece ci sono questi gruppi degli anni Ottanta, ma ti penso anche a George Michael adesso che ha una carriera solista, ma all'epoca con gli UM fece assolutamente, anche lui era al centro della scena pop mondiale, e questi miti io non credo che tramonteranno mai perché di base hanno la grande qualità. musicale, artistica, e poi le fan, come hai detto tu, nel giorno del Festival del Cinema di Roma non li hanno assolutamente abbandonati, anzi abbiamo visto scene veramente che ci riportavano indietro di 30 anni. Beh, la cosa divertente è stata che il giorno prima c'erano le fan quindicenni di Lily Collins e Sam Claflin, gli attori del momento per Hunger Games, per queste commedie, e il giorno dopo c'erano le fan degli Spandau Ballet che avevano qualche anno in più dei 15, non tanti, ma insomma erano... Diciamo che l'inizio sono gli Anta, via, dai 30 e gli Anta. Esatto, Enta e Anta, diciamo, per questo documentario che raccontava questa storia degli Spandau Ballet. Abbiamo chiesto proprio come mai questo successo del documentario e anche della loro figura al compositore degli Spandau Ballet, l'anima dietro tutte le loro canzoni, Gary Kemp. You know, Soul Boys, very, very niche English youth culture. And yet, era quella di noi Soul Boys, una cultura giovanile davvero di nicchie. E alla fine siamo riusciti a venderla globalmente, in tutto il mondo. Nel film vedi addirittura la principessa Diana che indossava dei vestiti che ci eravamo inventati giusto qualche settimana prima. This is about people, it's about relationship, you know, deep friendship. È una storia di persone, una storia di rapporti umani, di amicizia profonda. È quello che al pubblico piace del film, perché ci si può immedesimare in noi come persone, molto di più rispetto a quello che succede nei soliti rockumentary, i soliti cliché, dalle stalle alle stelle. Noi abbiamo cavalcato l'onda di una decade e abbiamo visto davvero tanti cambiamenti. I think, you know, we saw an awful lot of changes. Long Story Short, un altro dei successi pazzeschi degli Spandau Ballet. Intanto c'è Max Zoara Binario che le mima tutte, le suona tutte nella sua testa. Ma sì, insomma, dai, ha ragione quando dice che sono grandi canzoni che rimangono nel tempo, che hanno una qualità superiore. È un dato di fatto, e quindi anzi ascoltiamo, facciamo sentire musica. Ma sai che c'è anche via Twitter Giovanna Panuzzo che dice: mi piacerebbe che la musica iniziasse a prendere un po' di spazio in più a Radio 24. Poco a poco ne sentiamo un po' di più, poi ne parliamo, e parliamo anche di quello che fa tendenza. Grazie per il tweet al mio account, che è più rapido, chiocciola Marta Cagnola, lo conoscete già per 140 caratteri per RadioTube. Max, sveliamolo alla nostra esperta Chiara Di Giambattista. Tu li conosci? Hai lavorato con Gary Kemp? Conosci Tony Hadley? Ma sì, Tony Hadley l'avevo chiamato per venire a giocare nella nazionale cantanti. No, sì, non ci 94. Posso credere. ma richiamalo, ma richiama, era, secondo me viene. Era appesantito di qualche chilo in quegli anni lì. Bello, era dai. Bellissimo, lui è altissimo, no? Io sono piccolissimo, quindi c'era quando ci siamo presentati in hotel, ricordo, disponibilissimo, si è divertito. Mentre Gary Kemp credo che sia, insomma, un po' la mente, no? Il genio. Poi sono tutti bravi, però la sensazione che ho avuto è che Gary Kemp fosse un po' il leader musicale. E con lui ho dovuto provare a far musica, e ho un ricordo particolare della gestione, no? Difficile. Un bollettino, no, di composizione firmato da Gary Kemp e me, credo che abbia fatto il giro del mondo e ancora sia disperso. Mancano ancora alcune firme. Non hai ancora avuto i diritti perché non è ancora stato firmato. Beh, Chiara, tu che li conosci bene. Allora, Chiara, per spiegare, lei è serissima, è un bravissimo autore televisivo. Lo dico, perché non... Però, allora, gli Spandau arriveranno in Italia a marzo, faranno un po' di date. Lei ha comprato tutti i biglietti per tutte le date. Ah. Ma certo, come perderli? Assolutamente, ma ti dirò di più. Io li vado a vedere anche a Liverpool, circa una decina di giorni prima che loro arrivino in Italia, così, giusto per scaldarmi un pochino. Ma il marito lo lasci a casa o lo porti? No, il marito lo lascio a casa, lui quando faccio queste cose mi lascia andare, poi io lo avverto, gli dico guarda che poi torno normale, e lui è tranquillo su questa cosa, non si preoccupa più di tanto. Ma ti dirò di più, che io l'anteprima del film ero stata a vederla a fine settembre a Londra, alla Royal Albert Hall, quando loro hanno presentato e hanno fatto anche un piccolo live, e ti devo dire che sono ancora totalmente informissima. E devo dare ragione a Max sul discorso che diceva prima del fatto della mente del gruppo, che è assolutamente Gary. E poi è stato quello in effetti che ha creato un po', diciamo, tutte le piccole scaramucce che poi si sono trasformate nello scioglimento, nella causa in tribunale, che vengono raccontate nel film, perché c'è sempre stata un po' questa insomma questa testa con Tony Hadley, che invece era il frontman, la voce che identificava moltissimo le canzoni degli Spandau Ballet. Per cui erano due personalità fortissime che si sono scontrate, ma la loro grande forza, la loro grande intelligenza è stata quella di riuscire a un certo punto a tirare una linea e ripartire da capo. Ma questo credo sia successo semplicemente per un fatto che loro sono cresciuti insieme, erano compagni di scuola, compagni di classe, a parte i due fratelli Kemp, ma erano, Martin è il più piccolo di tutti, ma diciamo che si conoscevano talmente tanti anni che si sono guardati in faccia e si sono chiesti: ma veramente vale la pena buttare via tutto quello che abbiamo fatto, tutto quello che abbiamo costruito, tutta la meraviglia che poi si vede nel film, il delirio negli anni di successo, del picco del loro successo, che sono stati gli anni 80, e forse la risposta se la sono data da soli ed era no, non vale la pena. E anche per questo il film è particolarmente, lo dico, è anche commovente, perché è proprio una grande storia di vita. Io però adesso farei una provocazione in musica. Abbiamo parlato degli Spandau Ballet e invece questi sono i Duran Duran. Duran Duran così, messi con The Chauffeur, messo sotto così, ok. Così ho scelto quella che piaceva tanto a me. Chiara, noi intanto ti giro i complimenti di Paola Marziani, che su Twitter ci scrive: grazie a The Real Chiara DG, ma forse siamo più tra i 40 e i 50 anni che tra i 30 e i 40, ero sul red carpet per loro. Comunque delle ragazzine, via, adesso esatto. Non stiamo a sottilizzare. Comunque delle ragazzine. Allora, noi chiederemo a tutti i nostri esperti dei consigli per gli acquisti appunto mentali. Quindi stiamo parlando di una grande tendenza della scoperta, della riscoperta degli anni 80, per chi non avesse avuto la fortuna di viverli e di conoscerli, diciamo così. Chiara, consigliaci tre dischi da recuperare degli anni 80. Allora, guarda, se io ti avessi dovuto rispondere 20 anni fa, ti avrei detto Parade degli Spandau Ballet, Arena dei Duran Duran e Make It Big degli UM, che erano i tre capisaldi di quell'epoca. Oggi forse ti aggiungerei anche un altro terzetto, che è The Queen is Dead degli Smiths, Like a Prayer di Madonna e Flowers in the Dirt di Paul McCartney, che è un disco straordinario e forse non tanto conosciuto. Straordinario. Chiara, io ti devo ringraziare. Intanto è arrivato un messaggio: 349-238-6666 da Max. Hadley, gran voce, gli Spandau Ballet, criticati per non fare musica impegnata, si vantavano di essere veri figli della classe operaia e amati da essa, e anche questo viene raccontato nel loro film. E poi è arrivato sempre al 349-238-6666 invece un messaggio per il nostro Max Zoara: Binario fa musica da 20 anni, sono decisamente pochi cantanti e gruppi nati 20 anni fa e che ancora fanno musica, e ci dice una ricetta, ma soprattutto a quando l'album? Dai, lo aspettiamo, dici Max. No, dai, l'album è chiuso. Direi che la versione in italiano, no, è finita ieri con i mixaggi, quindi l'album uscirà a gennaio. Per l'album invece in spagnolo aprile. Beh, l'album in spagnolo, capito? Cioè noi abbiamo al Sabato del Villaggio una sigla che poi andrà in un album che andrà in tutto il mondo. Ma perché, capito? Cioè, c'è da dire una cosa, che anche i contratti discografici sono cambiati. Ah. Ha ragione, adesso no, una canzone dura poche ore in classifica, no? E anche i contratti durano pochissimo. Io invece, arrivando da quella scuola un po' dove si conservava un po' di più la musica, anche i progetti musicali sono un po' più diluiti e durano magari un pochettino di più. Straordinario. Io devo ringraziare i nostri ospiti, io vi do i loro account di Twitter, perché così li potete trovare anche su Twitter, che sono The Real Chiara DG. Grazie e buona giornata, Chiara di Giambattista. Grazie mille Marta, grazie Max e grazie a tutti gli ascoltatori. A presto Chiara e a presto anche a Max Zoara, che poi tanto ci tiene compagnia sempre con le sigle di Radio 24. Ciao, ciao. Chiocciola Binario. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme con Il sabato del villaggio, il nuovo sabato del pomeriggio di Radio 24, o meglio il nuovo pomeriggio del sabato di Radio 24, che vi terrà compagnia tutti i sabati dalle 15 alle 18 per parlare di consumi, di tendenze, di libri, di musica, di dischi, ma anche di nuove tecnologie. Tra poco parliamo proprio di nuove tecnologie, ma a proposito di nuove tecnologie, c'è sempre il mio account di Twitter, è molto semplice, lo conoscete già, per RadioTube, che è @MartaCagnola. Già ci scrivono, io ringrazio Alessandro che ci ha scritto lodando la nostra iniziativa di disvelare l'origine delle sigle di Radio 24, perché noi le ascoltiamo da 15 anni, abbiamo appena festeggiato il compleanno, ma non abbiamo mai spiegato chi le scriveva e come venivano scelte le sonorità. Adesso l'abbiamo saputo, il nostro Max Zoara Binario, ho appena twittato anche il suo video, il video di Soltanto un'idea, che poi è il brano da cui arriva questa sigla, che lo dico, la più bella del nuovo palinsesto di Radio 24, la sigla del sabato del villaggio. E poi al 349-238-6666 i vostri sms, e arrivano anche proprio i messaggi per i fan dei Binario. Binario è una strada, ma anche un modo di vivere. Chissà se arriveranno anche i messaggi dei fan di Enrico Pagliarini. Buongiorno Enrico. Chi lo sa. Binario è una strada ferrata. Ah, beh, ecco, il nostro esperto di tecnologie di oggi e di ieri. Esatto. E di domani. Esatto. Con Enrico Pagliarini parliamo di tutte le novità che riguardano le tecnologie. Noi eravamo abituati a quest'ora ad avere 2024. Io nel sabato del villaggio ti ospito quanto... Ma puoi rimanere anche 3 ore. Tu puoi rimanere quanto vuoi, Enrico. Magari non oggi. Un appuntamento per prendere un gelato attorno alle 16. Avevi una magalante. Si può sapere? No, non lo diciamo agli ascoltatori, un appuntamento per il gelato, diciamo solo così. Abbiamo tutte le novità in fatto di tecnologia, ma soprattutto tutte le tendenze più importanti. Io vorrei però annunciare la prima con una musica che ho scelto in maniera molto intelligente. Sentiamo. Eccola qua. Ho capito. People have the power. Oppure people don't have the power. Esatto, dipende dai momenti. Siamo vicini al blasfemo, usando Patti Smith per questo argomento. Però è una di quelle belle parole americane che si prestano, certo, power è bellissima, a varie interpretazioni. Le persone dovrebbero avere l'energia, perché oramai se non abbiamo l'energia, quindi se la nostra batteria dello smartphone, del tablet o del computer portatile, ma anche di un sacco di altri aggeggi... Tu con quanta roba giri? Con uno zainetto pieno di roba. Anch'io con una barra, due borse, il tablet, lo smartphone, a volte il registratore, perché per la radio serve anche usare questo. Potrei dire il tablet, certo. gli smartphone. Infatti, quando mi chiedo, ma tu che smartphone hai? Perché uno dei trucchi è, ma tu che smartphone hai? Quindi se ce l'hai tu magari me lo compro anch'io. Io dico, li ho tutti, che più o meno è vero. È vero. Ce li ho tutti sempre contemporaneamente, però ad esempio oggi ho almeno 3 sistemi operativi. E ce l'hai, the power. Allora, ho portato qui questa scatoletta che in gergo tecnico, allora questa non è una cosa dell'ultima, non è l'ultimissima novità. Aspetta, che la fotografo e la twitto, facciamo così. Esatto, allora tu parlane e io tu e intanto allora, la fotografo. Questa scatoletta è una power pack o power bank, o detta all'italiana molto più semplicemente batteria ricaricabile portatile. Quindi una cosa che mi piace sottolineare e ricordare, perché è molto utile, ma vedo che non si è ancora diffusa a sufficienza. Allora, noi abbiamo tutti un problema, cioè almeno chi usa assiduamente soprattutto lo smartphone, ma anche il tablet e altri aggeggi, arriva ad un certo punto della giornata, speriamo alla fine della giornata, ma a volte anche a metà della giornata, e non ha più batteria. Allora, i casi sono vari. Uno ha il caricabatterie in automobile, se gira in automobile può ricaricare lo smartphone. Trova una presa in un ufficio di qua e di là, gira nei bar, nei ristoranti, si va chiedendo per favore. Una delle ultime novità è i bar e i ristoranti, gli aeroporti, che dicono abbiamo un bancone dove mettiamo a disposizione caricabatterie per gli utenti. Allora, se noi invece acquistiamo una batteria portatile e costa pochissimo, stiamo parlando di 10-15, le più sofisticate, le più potenti 30 euro, quindi insomma una cosa abbastanza a buon mercato, possiamo, mentre passeggiamo, attacchiamo questa batteria al nostro smartphone e il nostro smartphone si ricarica. Quali sono le differenze? Di consigliare un modello piuttosto che un altro? Perché io confesso che il primo che ho avuto me l'hai regalato tu. Sì, tanto per dire che costano poco, regalare come fossero il pane. Come per dire a te, ho fatto no, ma non dovevi dire così, dovevi dire nonostante. No, voglio dire che non era un regalo di quelli importanti fatti per il compleanno. Te l'ho regalato un giorno e ho detto aspetta che ti regalo questa cosa. È vero. Quindi non costano tanto, ma come li scegliamo? Allora, direi, se avete un'esigenza poco importante, quindi dovete dare una botta al cellulare per magari 2 o 3 ore, comprate quello che costa meno, 10, quindi 20 euro massimo, non di più. Se invece avete delle esigenze importanti, beh, magari spendete qualche euro in più, ma non tantissimi euro in più, comprate una roba da 30 euro che magari vi fa anche 3 o 4 ricariche, quindi potete per una settimana attaccarlo al cellulare e ricaricare ricaricarlo in modo molto veloce. Molto ho semplice. Un'altra domanda, mm-hmm. però, per chi avesse Apple bisogna ricordarsi il cavetto che va d'accordo, perché il cavetto nuovo deve essere approvato e originale. Tendenzialmente quasi tutti hanno, molti hanno l'uscita mini USB, quindi mm-hmm. è facile collegare uno smartphone compatibile. Per Apple consiglio di prendere quelli che hanno l'uscita USB classica, normale, a quella USB ci si attacca il cavetto iPhone, ricordarsi iPad, il cavetto, perché ho provato a dimenticarmelo. E la nostra Chiara di Giambattista, che era in diretta con noi prima, ci sta twittando che il Power Pack l'aveva già messo nel kit di sopravvivenza per il Festival di Sanremo di 2 anni fa. Bravissima. E poi ti saluta Arte It, che dice meno male c'è Enrico. Certo che c'è Enrico, come possiamo passare il sabato? Meno male che c'è Marta, no? Meno male che c'è, sabato pomeriggio senza Pagliarini non è un sabato pomeriggio. Ieri abbiamo parlato molto di questa campagna per l'IVA sui ebook e libri cartacei, cioè un libro è un libro, e questa è la campagna dell'Associazione Italiana di Editori. Com'è possibile che il libro cartaceo abbia l'IVA al 4% e l'ebook al 22%? Ora, al di là del concetto di è giusto il 4, è giusto il 22, insomma è folle che siano diverse, perché sono l'oggetto è lo stesso. Ma oltre a questa campagna voglio chiederti brevemente ebook reader. Sì, dico una cosa sulla campagna. Allora, è stata lanciata dall'AIE, che è l'associazione degli editori, una cosa importante. La normativa fiscale effettivamente è assurda, e quindi mi sembra giusto fare una campagna per parificare il digitale e l'analogico. Anzi, mi piacerebbe dire che noi dovremmo favorire sempre di più il digitale rispetto all'analogico, e arrivo ai vantaggi del digitale rispetto all'analogico nel mondo del libro. Noi fortunatamente alcuni milioni di italiani si sono già accorti, perché ogni anno si vendono 2-3 milioni, quest'anno probabilmente 3 milioni di ebook reader, quindi lettori di libri digitali, quindi stiamo parlando insomma di una cosa che sta cominciando a entrare nella società. Ma immaginiamo, se siamo un lettori assidui, in un terminale che pesa 2-3 etti possiamo portarci dietro 1000, 2000, io dico un numero di libri pressoché infinito, perché non so quanti. Sperando che la gente abbia voglia di leggere così tanto. Favorendo il portarsi in giro i libri, magari si favorisce anche la lettura. Allora, che cosa offre il mercato? In un minuto, poi, se vogliamo, gli ascoltatori ci chiederanno, ci possiamo tornare su questo, che è un bel tema. Bello, che ci sta diventando tornarci. Effettivamente molto popolare. Allora, purtroppo, o per fortuna per un ordine mentale, purtroppo perché a noi piace anche come Radio 24, come Sole 24 Ore, la concorrenza, diciamo che oramai la scelta nel mondo degli ebook si riduce a 3 grandi mondi ed ecosistemi. Certo. Allora, Kindle di Amazon, che conosciamo, molto noto, Kobo, che è un'azienda giapponese che viene distribuita in Italia grazie ad un accordo con Mondadori, ottimo prodotto, molto ben fatto, altro ecosistema, paragonabile e sovrapponibile ad Amazon per praticità, per vari motivi, e ultimo arrivato, un nome simpaticissimo, si chiama Tolino. Carino, però attenzione, sai chi ha dato questo nome? Questo è un ebook reader che nasce in Germania. Quindi i tedeschi così, yeah, così, così severi, hanno fatto un ebook reader che si chiama Tolino. In Italia c'è un accordo e sta arrivando sul mercato perché arriverà il 18 novembre, grazie a IBS.it, che è una grande libreria digitale online, che ha fatto un accordo con Deutsche Telekom, che ha promosso questa iniziativa. Quindi ci sono sostanzialmente questi tre mondi. Giusto per avere un'idea, prezzi. Allora partiamo dai 59 ai 79 euro dei modelli più diciamo base, fino ai 189. Kindle va da 59 a 189 a seconda dei modelli, Kobo da 79 a 179, il Tolino ci sono due modelli, 99 e 149. Secondo me ne parleremo molto anche verso Natale, ci chiederanno di parlarne molto. Io avrei voluto chiederti anche dei consigli in fatto di app, però siccome il nostro tempo è finito, ne parliamo sabato prossimo? Sì, anche perché così studio meglio le app. Dai, no, avevo perfetto. Una lista simpatica di applicazioni da mettere sullo smartphone. Poi dobbiamo farci un selfie col pollice verso per la campagna Un libro è un libro, ce l'ha chiesto anche l'account Un libro è un libro. Noi ci ritroviamo tra poco, grazie Enrico Pagliarini, ci ritroviamo tra poco per parlare di cinema, grazie ciao, Enrico. Ciao. Il sabato del villaggio. Ancora insieme con Marta Cagnola per l'ultimo quarto d'ora del sabato del villaggio di Radio 24, della prima ora del sabato del villaggio di Radio 24, che vi tiene compagnia infatti fino alle 18. Ancora un'ora per parlare di consumi, nuove tendenze, libri, TV, serie TV, tantissimi argomenti, e poi dalle 17 alle 18 c'è il nostro appuntamento consueto con RadioTube insieme a Daniele Bellasio, promosso un'ora prima, viene anticipato di un'ora, non dalle 18 alle 19, ricordate, dalle 17 alle 18. Intanto ringrazio per tutti coloro che ci stanno mandando sms al 349 238 6666, e si è animato il mio account di Twitter @MartaCagnola, perché insomma abbiamo parlato di ebook reader, è un argomento che interessa molto, e ringrazio anche Federico Taddia, il nostro Federico Taddia, che ci ha fotografato con Enrico Pagliarini in studio, perché insomma c'è un po' di vita finalmente nel sabato di Radio 24, nel sabato pomeriggio, nel sabato del villaggio di Radio 24. Parliamo di tutto ciò che fa discutere in positivo, crea discussioni, crea spunti di riflessione, ma anche dei consigli per gli acquisti mentali e culturali. Parliamo di cinema, ad esempio. Parliamo di cinema perché il fenomeno del momento è uno, e non sono, come è successo per tanto tempo, e le commedie quest'anno sono tutte dietro al campione di incassi, che è il film dedicato alla vita e alle opere di Giacomo Leopardi, Il giovane favoloso. È il film più visto della stagione cinematografica italiana. Mario Martone ha sbancato i botteghini a 2 settimane di programmazione. Lo avevamo visto a Venezia alla 71esima mostra internazionale d'arte cinematografica. Ora è uscito, 2 weekend di programmazione, è il più visto di questa stagione, superando la soglia dei 3 milioni di euro e del 500.000 di spettatori. Qual è la trama? Vabbè, è chiaro, insomma, è la storia di Giacomo Leopardi in 3 momenti fondamentali per la sua vita. Ma ascoltiamo un brevissimo estratto dal Giovane Favoloso. Spogliarsi di questo scetticismo, perché contiene il vero. E in cosa consiste il vero? Consiste nel dubbio. Vivere a caso. Non chiedo altro, in fondo. Giacomo! Volete che passi i suoi giorni nella sterile occupazione di commentare gli autori antichi? Ma a chi abbiamo chiesto intanto le ragioni di questo successo e soprattutto perché questo film? Beh, al regista Mario Martone. È stata una scelta sofferta, perché ovviamente ero consapevole di tutti i rischi che c'erano, e quindi diciamo dove mi andavo a infilare. Però è anche vero che è un film che viene da un lungo processo di lavoro, diciamo questo cantiere ottocentesco che ho aperto 10 anni fa. Non è che mi affascinasse quando ero ragazzo, però invece a un certo punto ha cominciato a mostrare così tante possibilità e così cose così vive, no? Proprio teatralmente, cinematograficamente. Ho messo in scena le operette morali di Leopardi e questo spettacolo ha avuto un grande riscontro di pubblico, quindi ho cominciato a capire che c'era una possibilità proprio di che Leopardi potesse parlare direttamente a uno spettatore di oggi. Mi piaceva l'idea di raccontarlo come un ribelle, quale io penso sia stato Leopardi. C'è una persona che sentiva la vita in una maniera fortissima, quindi a dispetto di tutti i luoghi comuni, sulla sua appunto tristezza e così via. Invece in realtà quello che Leopardi aveva era un sentire la vita fortissimo. Gabbia dopo gabbia, diciamo, Leopardi le rompeva tutte, le rompeva con la forza della poesia, con la visionarietà della sua scrittura, con l'energia vitale che metteva sempre. Ecco perché era bello raccontare la sua vita. Ma per avere un parere su questo successo di Mario Martone ne approfitto, è già arrivato negli studi di Radio 24 Franco D'Assisti. Buon pomeriggio, Franco. Buon pomeriggio, Marta, eccoci qua. Sì, siamo un po' in anticipo oggi perché effettivamente c'è da preparare qualcosina per le nuove collocazioni del nostro programma. La Rosa Purpurea da questo sabato dalle 18 in poi. Ne approfittiamo, ti chiediamo, e lo faremo tutti i sabati, dei consigli per i film in sala. Intanto appunto, questo successo di Mario Martone tu come lo vedi? Ma guarda, lo vedo bene, nel senso che il film mi è piaciuto molto ed è un film che parla non di Mario Martone ma di Giacomo Leopardi come di una sorta di rockstar. Questa è una cosa che è piaciuta molto anche a un pubblico giovane, non giovanissimo, giovane diciamo dai 18 anni ai 25. Elio Germano con la sua interpretazione ha totalmente rinnovato l'immagine di questo personaggio della nostra letteratura, che abbiamo tutti studiato un po' ingobbiti anche noi sui libri di testo, e che stavolta esce veramente come un uomo tormentato, sembra quasi un leader appunto di una rock band che si rovina, ma che vuole vivere, vuole amare, non ci riesce. Questa cosa secondo me è una delle cose più belle che abbia fatto Martone, e questo spiega anche il successo che sta avendo. Insomma, le commedie invece non sono andate molto bene, forse tutti i cast tutti uguali, non tante commedie non erano poi così brillanti, ma c'è qualcosa, per gli appassionati di commedie c'è qualcosa che ci puoi consigliare? Sì, guarda, è vero quello che tu dici. Troppi cast tutti uguali, troppe locandine tutti uguali, troppi titoli tutti uguali, la gente fa fatica. E poi è chiaro che quando una commedia va bene, poi dopo se ne fanno altre 120 uguali, e quindi questo non funziona. Però io voglio segnalare un film che esce questa settimana, che secondo me troveremo molto in alto, se non addirittura al primo posto, lunedì nella classifica del box office, ed è Confusi e Felici di Massimiliano Bruno, che tra l'altro sarà nostro ospite in trasmissione fra poco. Perché intanto il cast in questo caso è collettivo, ma è di qualità. Marco Giallini, per dirne uno su tutti, ma tutta la squadra, diciamo, di Massimiliano Bruno, Claudio Bisio, Anna Foglietta, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, che ha già tirato fuori un tormentone, questo ciaone che sta diventando un po' un modo di dire anche negli uffici, nei posti di lavoro. E poi perché il tema è interessante, perché certo si ride, ci sono le battutacce, ma sotto c'è un tema, quello del fallimento della psicanalisi, che per secondo la ipotesi e la tesi del regista è una situazione che deve essere superata, e che può essere superata da altri modi di analizzarsi e autoanalizzarsi. Il filmone invece, quello di cui parleranno tutti lunedì quando si torna in ufficio, quindi è meglio averlo visto, L'Uscitona? Ma L'Uscitona, guarda, quando metti insieme John Le Carré e Philip Seymour Hoffman, il risultato dovrebbe essere come dire scontato. Stiamo parlando di La Spia, il titolo del libro era A Most Wanted Man. È un film di spionaggio puro, proprio di quelli classici, super classici, forse anche troppo. Qualcuno ha parlato di un film senza un vero tiro in porta, usando una parafrasi calcistica, però il film io l'ho visto, mi è piaciuto comunque. È vero che è un po' seduto, ma insomma è un film molto classico, e poi soprattutto è una delle ultime, se non l'ultima interpretazione, non che vedremo al cinema perché arriverà Hunger Games, però di Philip Seymour Hoffman prima della prematura morte, e devo dire che è un attore che ci ha lasciato qualcosa davvero. Per chi avesse invece figli, ragazzi, bambini, cosa si può andare a vedere? Questo è sempre un dilemma, capire cosa si può vedere al cinema con i ragazzi. Questa settimana non moltissimo, nel senso che anche se i bambini sono piccoli, diciamo, fino alle elementari comprese, alcuni film ormai sbracano sul fronte del linguaggio sempre. Poi lo vediamo film per tutti, però poi in realtà andiamo lì e sentiamo di tutto. Detto questo, invece, se si vuole stare sereni, c'è Un fantasma per amico, visto che i fantasmini dai tempi di Casper funzionano sempre, ed è una cosa interessante perché è un'animazione tedesca, anche la Pemaia recente, che ha avuto grande successo al cinema, è un'animazione tedesca. Questo per dire che l'Europa e la Germania, segnatamente, quando si mettono a fare le cose, in questo caso in 3D, fatte bene, hanno il loro successo, quindi possiamo segnalarlo, Un fantasma per amico. Ci hai portato le tue figlie, che ormai sono grandi. Beh, per questo sono un po' grandine, le grandi, le ho portate a vedere Jesus Christ Superstar, però agli Arcimboldi, ancora fino a questo fine settimana, poi andrà a Torino, continuerà il suo tour, e sono contento che avremo in questa nuova prima puntata della Rosa, alle 18, avremo l'intervista con il Jesus Christ del film, Ted Neely, che è nel cast di questo spettacolo, e che è un attore che racconta un'esperienza straordinaria, quella di come si stava su quel set in Israele 40 anni fa. Quindi appuntamento alle 18 con La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi nella nuova collocazione. Noi invece ci interrompiamo perché c'è una pausa, c'è anche il giornale radio, ci risentiamo più tardi, sempre con il Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Ancora buon pomeriggio da Marta Cagnola, ci risiamo con il nuovo sabato pomeriggio di Radio 24, la seconda ora del Sabato del Villaggio, dove il villaggio, lo abbiamo detto, è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. E vi ricordo, nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, ma anche voi tenetevi compagnia, lo state facendo con due strumenti velocissimi, l'SMS 349-238-6666, anche perché sono io la prima ad aspettare i vostri consigli in fatto di acquisti mentali e culturali, anche perché voglio sapere anche da voi quali sono le nuove tendenze. I consigli sono sempre preziosissimi, e con il mio account Twitter @MartaCagnola e l'hashtag ISDV, il Sabato del Villaggio, insomma, era un po' lungo. Cosa succederà nella seconda ora del Sabato del Villaggio? I libri che mettono paura, c'è un thriller che domina le classifiche, ce lo racconterà, senza svelare troppo però, Alessandra Tedesco. Le nuove tendenze, le strategie anticrisi, dal vintage all'aperitivo, ne parliamo con Maria Luisa Pezzali. Le serie TV di cui non possiamo fare a meno, anche qui con un po' di brividi, dopotutto abbiamo appena festeggiato Halloween. Ma prima parliamo ancora di cinema, del film di cui bisogna sapere tutto, ma proprio tutto. Nick Dunn, è probabile che oggi lei sia l'uomo più odiato d'America. Ha ucciso lei sua moglie, Nick? Tutti ci dicevano e ripetevano che il matrimonio è faticosissimo. Non per me, Nick. Come tutti sapete, mia moglie, Amy Elio Dunn, è scomparsa 3 giorni fa. Non ho niente a che fare con la scomparsa di mia moglie. Non ho nulla da nascondere. Amy ha amiche che possiamo sentire? No, non direi. Lei non sa se ha delle amiche, non sa come passa le giornate, non sa il gruppo sanguigno di sua moglie. Ma che bravo il ragazzo a fare la parte del bravo ragazzo. A te proprio non piace, eh? Quello che cerco di fare è essere gentile con tutti quei volontari che ci aiutano a cercare Amy. Continuerò a credere che mio marito mi ami, ma potrei sbagliarmi. Eccolo qui, con Franco D'Assisi abbiamo parlato dei film che possiamo vedere subito in sala. Prima ancora abbiamo parlato del Giovane Favoloso di Mario Martone. Beh, insomma, per una trasmissione con un titolo leopardiano va benissimo il film dedicato a Giacomo Leopardi, ma questo invece è il film di cui bisogna sapere tutto, ma proprio tutto. Grande argomento di conversazione, mi raccomando, per le vostre cene, i vostri aperitivi, visto che, insomma, è sabato questa sera. Spero che la possiate passare in famiglia o con gli amici, con tanti argomenti di conversazione. Questo è il film che bisognerà vedere, del quale già si parla perché uscirà tra un po', è Gone Girl, diretto da David Fincher con Ben Affleck e Rosamund Pike. Ne parliamo con un'espertissima, con un grande critico cinematografico, firma tra le altre cose del Foglio ma anche voce della Radio Svizzera Italiana. Buongiorno, buon pomeriggio a Maria Rosa Mancuso. Buon pomeriggio. Il mio critico cinematografico di riferimento, faccio subito coming out, Maria Rosa, dobbiamo cercare di spiegare un po' la trama di Gone Girl. Non è facile, cosa possiamo dire per non svelare troppo di questo film? Beh, è difficile perché è un film pieno di colpi di scena, però una cosa si può dire, spesso tra le coppie ma anche tra gli amici ci si chiede: ma tu a cosa stai pensando? Ecco, questo è un film costruito proprio su che cosa sta pensando l'altro, sul fatto che forse ti nasconde qualcosa, ma forse invece non ti nasconde qualcosa. È la storia di un matrimonio, è la storia di due bellissimi e simpatici giovani, due bravissimi attori come Ben Affleck e Rosamund Pike, che stanno per compiere 5 anni di matrimonio, ma la mattina del 5° anno di matrimonio lei se n'è andata, non c'è. Gone girl, se n'è andata. Ci sono dei segni di colluttazione nel divano e da lì parte un'indagine di polizia ovviamente, perché in fondo questa ragazza è scomparsa, ma anche una doppia indagine, questo è molto divertente nel film, viene anche usato molto bene, come ha usato bene nel romanzo. Amy, così si chiama la moglie, Rosamund Pike, ha l'abitudine per gli anniversari di matrimonio di inscenare una piccola caccia al tesoro. Quindi c'è il doppio indizio, gli indizi che la polizia rincorre e gli indizi che il marito rincorre per cercare di capire che cosa sia successo. Tra l'altro il film è uscito praticamente già in tutto il mondo, da noi sarà praticamente un'uscita natalizia a dicembre, dobbiamo aspettare ancora molto. Intanto però mi chiedo se valga la pena leggere o meno il libro da cui è tratto di Gillian Flynn. Cosa facciamo? Lo leggiamo o no, Maria Rosa? Ma io l'ho letto 1 mese e mezzo fa e devo dire in un fine settimana, è una lettura fantastica, è un romanzo trascinante, però vi consiglio di leggerlo soltanto se non volete l'effetto sorpresa, perché in realtà libro e film sono assolutamente identici. I fan di Gillian Flynn pensavano che qualcosa sarebbe cambiato, si parlava di un finale cambiato. No, assolutamente no. È solo raccontato in un'altra maniera, più adatta al cinema. Quindi, se non siete proprio dei pervertiti, oserei dire come me, che vogliono sapere tutto subito e questo non guasta la sorpresa, leggetelo. Però aspettate dopo e sarà un doppio godimento. Allora, visto che abbiamo detto che il film di cui parlano già tutti senza averlo visto, c'è una cosa di cui tutti cominciano a parlare. Ben Affleck, adesso io non so come dirlo senza dirlo in maniera volgare, mostra tutto di sé, cioè si vede tutto, tutto, tutto. Però io il film l'ho visto e a me quel particolare lì è sfuggito. Maria Rosa, questa storia del full frontal, della nudità frontale di Ben Affleck, è vera o non è vera? Perché io l'ho visto al Festival di Roma, a me mi è sfuggito. Sinceramente è sfuggito anche a me, e poi ho trovato molta consolazione in un articolo su un giornale americano dove diceva che le donne non l'hanno notato mentre gli uomini sì. Allora, no, sai cosa c'è, Maria Rosa? Mi diceva Valeria in regia, mi chiedeva se non l'abbiamo notato perché era di dimensioni molto ridotte. No, non l'abbiamo notato perché la scena non lo svela davvero pienamente. Ma è un'ombra, ci sono dei vetri appannati, ma poi soprattutto è in una scena molto importante per il film. Questo è un film che ha un colpo di scena, poi un altro colpo di scena, poi cambia di nuovo tutto, eccetera. Certo, lui è nudo, però è in una scena in cui uno sta attento a qualcos'altro, cioè a che cosa sta succedendo, e vi posso svelare che non è sesso. Ecco, non è sesso. Maria Rosa, io ti ringrazio moltissimo. Io ho trovato su vulture.com, adesso lo twitto, un link per chi fosse curioso per capire esattamente in quale punto del film e a cosa bisogna fare attenzione per vedere quel particolare lì artistico di Ben Affleck, perché alla fine io rivedrò il film e veramente voglio capire, ma no, ma solo per curiosità giornalistica se si vede o non si vede. Grazie, grazie mille Maria Rosa Mancuso per essere stata con noi. A presto, grazie, ti disturberò ancora. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie Maria Rosa Mancuso. Il sabato del villaggio. Mi stavo distraendo un po' con Twitter perché vi stavo twittando l'articolo di Vulture.com, è in inglese, davvero dà tutte le indicazioni per chi fosse curioso di capire se si vede quel particolare lì in Gone Girl, film che uscirà a dicembre, però che è già sulla bocca di tutti, e quindi noi vi abbiamo già svelato cosa si deve sapere e cosa non si deve sapere di questo film veramente bellissimo. Sarà un caso cinematografico, non è difficile prevederlo. Ma ora nella seconda parte, nella seconda ora del nostro Sabato il Villaggio, mi sto un po' impappinando perché sono emozionata per questo nuovo sabato pomeriggio di Radio 24 in diretta. Abbiamo parlato di libri nella prima ora del Sabato del Villaggio, abbiamo parlato dell'oggetto, del supporto con Enrico Pagliarini, con la campagna Un Libro è un Libro, e abbiamo twittato e retwittato il possibile. Abbiamo parlato di questo libro, di Gone Girl, del film che sarà il film del momento non appena uscirà in Italia. Ora però andiamo a scoprire uno dei libri del momento oggi. Entriamo già un po' nell'atmosfera. Тили тили бум, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили тили бум, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где кому не спится. È il momento dei libri di cui dobbiamo sapere tutto, e già entriamo in un'atmosfera forse un po' inquietante. A me le ninne nanne un po' mettono i brividi. Chissà se è un libro che fa paura quello di cui ci parla oggi Alessandra Tedesco. Buongiorno Alessandra. Buongiorno Marta. Devo dire paurissima, non paura in questo caso. Quella che state sentendo infatti è una ninna nanna russa, come tu dicevi Marta, ed è il sottofondo del book trailer, insomma quei filmati che pubblicizzano i libri dell'ultimo romanzo di Donato Carrisi, che si intitola Il cacciatore del buio ed è pubblicato da Longanesi. Ovviamente, inutile dirtelo, è un thriller. Ne ho sentito parlare molto, ma raccontaci un po' cosa succede in questo thriller. Allora, questo thriller succedono diverse cose naturalmente. Diciamo che i protagonisti sono essenzialmente due. Da una parte c'è Marcus, che è il penitenziere. Penitenziere è una sorta di criminologo del Vaticano. Io non sapevo che esistesse sul serio, invece questa figura esiste sul serio, come ci ha raccontato del resto anche Donato Carrisi. Dall'altra parte c'è una fotografa della polizia scientifica. Lei cosa fa? Lei praticamente arriva sulla scena del delitto e deve fotografare, congelare la scena per poi naturalmente farla esaminare ai suoi colleghi. E c'è una caratteristica. Lei dice, Sandra, questa protagonista, dice: noi abbiamo una regola, noi fotografi della scientifica, non fotografiamo mai le vittime negli occhi, con lo sguardo puntato nella macchina fotografica. Ecco, Alessandra, dimmi subito quanta paura fa? No, fa parecchia paura, devo dire. Ed è sicuramente il thriller di cui si sta parlando di più in questo momento, tant'è vero che appena è stato pubblicato è arrivato subito ai vertici della classifica dei libri più venduti in Italia. Quindi in questo momento, se uno dice thriller, dice sicuramente Donato Carrisi. Ma hanno paura? Io me lo chiedo sempre. Gli scrittori, io me li immagino sempre come persone senza macchia e senza paura, perché devono... No, smentisco. Ne ho incontrati tanti veramente nella mia, diciamo, carriera, chiamiamola così, professionale, di thrilleristi. E devo dire che la cosa che ti sconcerta è che veramente loro sono persone che hanno paura a volte veramente dell'aria che respirano. Infatti, quando ho incontrato Donato Carrisi per questo romanzo Il cacciatore del buio, una delle prime cose che gli ho detto, Donato, ma insomma, tu di che cosa hai paura? Io di tutto, non sono sicuramente una persona coraggiosa, ma sarebbe deleterio per me essere coraggioso, perché non riuscirei a descrivere la paura nei libri. Vedi, c'è una cosa che mi spaventa più di ogni altra ed è la violenza. Ecco, nei miei libri non c'è mai violenza. Per me la violenza è quasi pornografia, cioè una violenza già consumata, è già tutto avvenuto, perché quello, l'energia negativa che rimane dopo, quella che rimane sospesa, quella che poi respiriamo tutti, no? quando sentiamo parlare di un fatto di cronaca dai media, per esempio, è quello il vero potere del male. Poi ho delle paure effettivamente banali, ho paura delle bambole. Il terrore delle bambole. Vabbè, fin avrei visto i film no, dell'orrore, tu li guardi? No, rifuggo dai film dell'orrore, perché l'horror è un genere che rispetto molto, però è dove la paura si manifesta attraverso mostri esterni. A me piace invece tirar fuori il mostro che è in ciascuno di noi. I tuoi thriller sono molto psicologici, infatti alla fine di ogni capitolo rimane sempre quel qualcosa in sospeso che dici, oddio, adesso cosa succederà? E inizi a pensare, la tua mente vaga e si fa a sua volta dei film, dei romanzi. Ma in realtà, guarda, la tua mente sa già, conosce già la risposta, perché per esempio la mia no. Inconsciamente la conosce, insomma, la risposta. Mi piace evocare le paure dell'infanzia, la paura del buio, per esempio. Io non dimenticherò mai la frase letta qualche anno fa sulla maglietta di una bambina a Londra, che è stata illuminante per me, per il tipo di paura che dovevo raccontare in un romanzo che è stato appunto L'ipotesi del male. E la frase recitava più o meno: non sai cos'è la paura finché non senti un colpo di tosse provenire da sotto il tuo letto. Beh, le paure dell'infanzia, è vero, sono quelle proprio che ci fanno ancora tremare. Forse è per questo che questa ninna nanna. Infatti, la paura delle bambole, anch'io un po', quelle, le bambole che rimangono con gli occhi aperti. No, ma non parliamo di queste cose, i clown, i pagliacci. No, Alessandra. No. Una cosa molto interessante, hai detto: vendutissimo, subito in cima alle classifiche. Ma come vanno gli autori italiani? Perché noi leggiamo tanti thriller italiani, ma nel mondo? Allora, diciamo che Donato Carrisi è uno di quelli più conosciuti all'estero fra i thrilleristi italiani, è amato per esempio anche da Sua Maestà Ken Follett, quindi insomma un bel marchio di qualità direi. Diciamo che gli autori italiani in genere all'estero stentano, invece Donato Carrisi già con il suo primo romanzo Il Suggeritore aveva avuto grande successo, è stato tradotto in inglese. Per i libri italiani è veramente difficile arrivare negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, e quindi Carrisi è sicuramente uno degli autori italiani più noti al mondo come narratore di genere. Ricordo il primo bacio che ho dato, tremando d'emozione, di passione. Beh, ma ci spostiamo di atmosfera totalmente dalla ninna nanna inquietante a questo Achille Togliani, perché è il momento dei nostri consigli. Io ho un po' di consigli da chiederti e da trasmettere anche ai nostri ascoltatori. È sabato pomeriggio, momento in cui ci possiamo dedicare anche ai nostri bisogni primari mentali e culturali, magari anche al problema dei regali. Cioè, Natale è ancora lontano, però io già qualcosa devo fare un regalo a mia zia. Allora, guarda, età? Età quasi 70, avida lettrice. Allora, non ho dubbi a questo riguardo. Sveva Casati Modignani, insomma, molti di voi la conosceranno, anche in questo caso i suoi libri entrano quasi sempre in classifica appena vengono pubblicati. Forse non tutti sanno che è uno pseudonimo, perché lei scriveva questi romanzi d'amore concentrati sulla figura femminile, sui sentimenti con il compagno, con il marito, poi ha continuato a scriverli da sola dopo che appunto lui è mancato. E Sveva Casati Modignani adesso è in libreria con un romanzo che si intitola Il bacio di Giuda, pubblicato da Mondadori. È una sorta di seguito di Il diavolo e la rossumata. Sono due piccoli romanzi in cui lei racconta proprio la sua biografia, la sua storia nel periodo della guerra, quando dove era costretta a mangiare anche cose, insomma, magari poco prelibate, mettiamola così. E visto che è un libro molto, molto autobiografico, parla tantissimo della figura di sua madre, che paura in questo caso, mi vorrei ritornare a Carrisi, perché thriller. La mamma di Sveva Casati Modignani era veramente anaffettiva, e infatti lei ce l'ha raccontata così. Era una strana donna. Per definizione mia e di mio fratello, la mamma era una donna molto strana. Io non ricordo un abbraccio o un bacio della mia mamma, però la mia mamma mi accudiva tantissimo, mi preparava delle merendine, dei pranzetti squisiti, e li faceva proprio per me. La mia mamma, che pure soffriva di miopia ma aveva un'abilità manuale straordinaria, stava tutto il tempo il pomeriggio a tagliare, misurare, provarmi i vestitini che faceva, me li ricamava, e il suo modo di volermi bene era quello. affascinante, lo leggerò anch'io, spero che mia zia non abbia sentito la trasmissione perché così le abbiamo svelato il regalo. Ma consigli invece per i ragazzi, è sempre difficilissimo azzeccare l'età. Allora io su questo faccio un provato per voi, cioè consiglio i libri che piacciono ai miei nipotini che hanno quasi 8 anni, insomma, quindi su questa fascia d'età sono preparatissima. Il personaggio che gli è piaciuto di più ultimamente si chiama Super Klaus. Sì, stiamo parlando di un Babbo Natale, ma di un Babbo Natale speciale, cioè che non lavora solo naturalmente a Natale per portare i regali, ma lavora tutto l'anno per andare in difesa dei ragazzini e dei bambini che hanno dei problemi. Questi libri sono diversi, naturalmente con diversi titoli, personaggio protagonista Super Klaus, pubblicati da Giunti Junior. Quello, diciamo, l'ultimo che mi è capitato per le mani e mi sono divertita a leggerlo con i miei nipotini, si intitola Guarda che roba, sempre alla moda. Scommetto che a Marta Cagnola piace un sacco. Ma bellissimo, ma parla di moda. Beh, parla di moda, sì, perché sai, i ragazzini non sanno sempre cosa va, cosa non va, cosa mi metto, cosa non mi devo mettere, già da quando hanno 6 o 7 anni. Sì, quindi sì, insomma, prestissimo. Questo Super Klaus direi che è proprio indicato per i bambini. Andate in libreria, guardate Super Klaus, affascinante. Beh, me lo leggo pure io. L'ultimo è a metà strada tra un consiglio e una mia curiosità, perché io ne sento parlare ultimamente tantissimo di questo Zero Calcare, quindi è un po' un consiglio, un po' una curiosità mia, un consiglio per chi ad esempio ama le graphic novel. Sì, allora, ecco, innanzitutto graphic novel femminile o maschile? Questo è il dilemma, perché c'è chi dice la graphic novel e chi il graphic novel, quindi fate un po' come volete, va bene. Viene femminile, no? Allora facciamo la graphic novel. Allora, Zero Calcare è sicuramente uno degli esponenti maggiori del graphic novel italiano, insieme a Gipi, quindi Zero Calcare e Gipi. Zero Calcare scrive questi graphic novel, fumetti, chiamateli un po' come volete, molto molto autobiografici, racconta sempre storie che lo riguardano, come in quest'ultimo Dimentica il mio nome, pubblicato da Bao Publishing. È proprio la storia di sua madre, di sua nonna, la storia che è riuscito a ricostruire, insomma, dei suoi antenati. E se posso dare una fascia di età, sicuramente i ragazzi intorno ai 25-30 anni. Lui è nato a metà degli anni 80 e nei suoi graphic novel fa spessissimo riferimenti a cartoni animati, film, personaggi, eccetera, tipici di chi ha vissuto l'infanzia alla fine degli anni 80. Tornano gli anni 80 questo pomeriggio. Lo incontreremo, chissà, magari lo invitiamo al nostro Sabato del Villaggio, ma c'è anche l'appuntamento col cacciatore di libri, Alessandra, quando ci ritroviamo. Il cacciatore di libri per i mattinieri, il sabato alle 6.45, quindi se vi siete svegliati presto stamattina l'avete ascoltato, oppure stasera dopo il GR delle 22. Straordinario, grazie Alessandra Tedesco e buona serata. Ciao Alessandra. Ciao a tutti. Mi devo rimettere gli occhiali perché non vedo gli sms al 349-238-6666. Mi prendono in giro perché ho parlato della nudità frontale di Ben Affleck e ho detto che la mia era una curiosità giornalistica. Andrea Bologna dice che mi vorrebbe conoscere solo per curiosità ragionieristica. Non prendetemi in giro, Ennio da Bergamo. Voi donne pensate solo a quello, peggio di noi uomini, fate bene. Ma no, è perché è un attore, stavamo parlando delle sue capacità da attore. Il sabato del villaggio. Ancora buon pomeriggio da Marta Cagnola. Ci ritroviamo con la seconda parte della seconda ora del nuovo sabato pomeriggio di Radio 24. Il sabato del villaggio, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Proprio di libri abbiamo appena parlato con Ale Tedesco, anzi vi do anche il suo account di Twitter, @ Ale Teddina. Abbiamo parlato anche di graphic novel, il dibattito, il graphic novel, la graphic novel, oppure chiamiamoli fumetti semplicemente. E infatti su Twitter mi scrive Barbara Maraldi e dice: vi prego, chiamateli fumetti. Attendiamo una posizione definitiva sul tema. Intanto vi ricordo che tra mezz'ora, dalle 17 alle 18, l'ultima ora del sabato del villaggio sarà il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ora però è il momento dei consumi e delle nuove tendenze e per parlarne ci affidiamo alla nostra esperta di consumi e di nuove tendenze, Maria Luisa Pezzali. Buongiorno Maria Luisa. Buongiorno Marta, a te e agli ascoltatori. Cosa dobbiamo tenere d'occhio in questo periodo? Allora, per questa prima puntata, questo debutto, Marta, vorrei parlare di abiti usati. Tu li compri? Mi piacciono. È difficile trovare le misure giuste perché trovo che un tempo avessero proprio un modo diverso di portare i vestiti, quindi a volte sono un po' da modificare. allungare, stringere, allargare, non so se hai mai provato anche tu, secondo me sono un po' da modificare, ma poi sono perfetti. Assolutamente sì, ma il gioco, il bello è anche quello, trovare i posti giusti, il capo da riadattare, dà una soddisfazione incredibile. Ecco, io devo dire, ho abbattuto le resistenze all'inizio che avevo e è stata illuminante l'incontro con un imprenditore dell'usato che mi ha detto una frase bellissima: quando io devo stimolare la propensione all'usato, dico, anche negli alberghi 5 stelle lusso, le lenzuola, gli accappatoi, le posate d'argento magari sono state usate da qualcun altro. Insomma, ah, certo, è stata una rivelazione, un'epifani. Verissimo, cioè uno dice magari, beh, ma questo abito è stato portato da qualcun altro, in realtà ci succede spesso. Pensavo che l'illuminazione ti fosse venuta da Sarah Jessica Parker in qualche puntata di Sex and the City, non quello so. Sì, e poi la conferma mi è arrivata dalla gallery di foto, l'abbiamo vista tutte, diciamocelo, tutti, anche i signori, a passeggio per il mercato dell'usato di Via Sagno a Roma. Caccia di abiti vintage. Beh, devo dire, quella insomma è stata proprio la conferma, anzi lo spunto poi per riflettere sull'usato e sul vintage. Come sai, Marta, come sapranno anche gli ascoltatori, non parliamo per la prima volta di vintage, è una tendenza ormai già consolidata, però nuova è in qualche modo l'attenzione che dà il consumatore a questo fenomeno, nel senso che inizia a diventare una vera e propria strategia di acquisto quando si è alla ricerca del capo unico, non omologato, che ha una storia da raccontare senza spendere un patrimonio, tra l'altro, che insomma di questi tempi è sempre un elemento di valutazione importante. Abbiamo voluto chiedere consigli doc a un vero e proprio guru del settore, e Angelo Caroli è il pioniere del vintage in Italia, uno dei promotori tra l'altro della Milano Vintage Week, che si terrà dal 7 al 9 novembre prossimi, perché poi il vintage è un mondo fatto anche di eventi e luoghi molto affascinanti da frequentare. Prendete appunti, prendiamo appunti, io l'ho già fatto durante l'intervista, sentiamo i consigli. Beh, in questo momento consiglierei di comprare o qualcosa degli anni 50, per cui un tessuto di tweed, qualcosa di bouclé, se no anche qualcosa dei minimalisti degli anni 90, sicuramente più difficili, più raffinati, però sicuramente anche questi in grande tendenza. Chiudiamo con un consiglio per il pubblico maschile. Allora, cosa potrei consigliare ai signori? Beh, allora, se sono più giovani, una giacca sicuramente di quelle di lana scozzese, i CPO, che adesso sono di gran moda. Per invece un uomo un po' più adulto, un bellissimo papillon di seta. Beh, bello, io ho preso appunti soprattutto sugli anni 50 perché mi piacciono molto come stile. Una cosa molto interessante hai detto: non è che andare a comprare le cose vintage insomma ci fa dissanguare il portafoglio, perché dobbiamo sempre stare attenti a queste strategie anticrisi, come spesso le chiami anche tu. Sì, assolutamente sì, tra l'altro, come le chiamiamo spesso, in essere avere un inciso, Marta, permettimi di dare l'appuntamento agli ascoltatori più affezionati, essere avere si è spostato alla domenica, quindi domani l'appuntamento per tutti è alle 15, continuiamo a parlare di tendenze, consumi, di strategie anticrisi. Il mio appunto è nella lista per i regali di Natale, il papillon l'ho già messo a disposizione di fratelli, mariti, eccetera, secondo me è un ottimo consiglio. Speriamo che non stiano ascoltando, perché se no sanno già cosa c'è nel pacchetto con un discreto anticipo. Ma continuiamo appunto sulle strategie anticrisi, se hai qualcosa da suggerirci. Allora, vorrei parlare del volantino 2.0, del couponing digitale, siti e app che quando ti appresti a fare la spesa ti permettono di scoprire dove puoi trovare il prezzo migliore, l'offerta imperdibile. Per parlare di questo però, Marta, ci avvaliamo di un'esperta, retail e grande distribuzione per lei non hanno segreti, gli ascoltatori di Essere Avere la conoscono già, è la direttrice di Markup e GDO Week, Cristina Lazzati. Ciao Cristina! Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Cristina, benvenuta. Allora Cristina, parliamo della versione digitale del caro e vecchio volantino, quello che intasa le caselle della posta, che poi magari ritagliamo, pieghiamo a mo' di appunto anche in questo caso, poi però lo perdiamo. Adesso c'è la soluzione. Assolutamente sì, anche perché per l'appunto il volantino a cui comunque gli italiani rimangono molto molto affezionati, si è semplicemente trasformato ed è finito dentro a un'app o a un sito. I siti più, diciamo, più cliccati e più conosciuti sono quelli, li elenco velocemente, dove conviene, Risparmio Super, Clicca Promo e Promo Qui. Tutti hanno delle caratteristiche particolari, ma in linea di massima quello che succede un po' per tutti è che c'è una versione sia computer sia l'app da scaricare. Sono delle offerte particolari che magari non troviamo nei volantini tradizionali, quelli che io confesso poi quando sono scaduti uso in cucina, non so se devo affettare qualcosa, li uso, è una cosa che mi insegnava mia nonna, adesso però perlomeno risparmiamo carta, è un meccanismo un po' diverso. Anche attenzione alle insegne, perché anche le insegne non si stanno lasciando tirando indietro, da sempre lo fa Media World, che ha aumentato ulteriormente le sue offerte sia sull'app sia come volantino 2.0, ma anche sull'app di Esselunga, sull'app di Coop ci sono delle promozioni segnalate, tra virgolette dico apposta per te, perché in qualche modo tu puoi mettere le cose che ti interessano di più o quelle su cui fai più fatica a spendere. Faccio un esempio per tutti, i pannolini, che sono un grande classico, dove adesso si possono trovare spesso dei grandi sconti, basta aspettare un pochino, magari 15 giorni, un mese, e si fa la scorta a metà prezzo. Ecco Cristina, come consiglio finale, un po' così, pronto uso pragmatico che possiamo dare, anche qui Marta prendo appunti io. Io tra poco vi twitto anche i link dei siti che ci ha dato Cristina. Perfetto, così li ritwitto anch'io. Molto semplice, da un lato ricordiamoci che per risparmiare pochi euro il nostro tempo vale un po' di più, quindi non vale la pena girare tutto, scaricare tutto. Quello che sicuramente funziona è, per quello che riguarda la spesa, due cose: una sola applicazione, sceglietevi quella che ha più punti di vendita legati nella zona dove risiedete o dove fate normalmente la spesa, e in seconda battuta siate un po' fedeli al vostro supermercato di riferimento, che tanto le promozioni ve le fa o prima o dopo, e a quel punto tanto vale scaricarsi l'app direttamente dalla propria insegna. Cristina Lazzati, grazie, a sabato prossimo. Grazie a voi, ciao. Grazie, grazie Cristina. Maria Luisa, abbiamo parlato del vintage, abbiamo parlato della spesa, per concludere, visto l'orario che insomma ci porta verso l'ora dell'aperitivo, chissà quanti stanno organizzando per questa sera, diamo anche a loro un consiglio, va ancora di moda, si fa ancora l'aperitivo? Sì. Allora, direi proprio di sì, ha cambiato molto forma, tra poco anche i numeri ci racconteranno come, però prima del prodotto voglio parlare di chi ce lo fornisce, dei bartender. Sono i barman di ultima generazione che decretano o meno il successo di un locale, perché diciamocelo, degli chef stellati non se ne può più. Io punto sui bartender, Marta. E quindi diventeranno le prossime celebrità? Sì, abbiamo ancora un po' di tempo prima che possiamo essere in saturazione anche per anche loro. Dei bartender. Esatto. Pare che i migliori, abbiamo fatto un po' di ricerca, siano a New York, Singapore, Tokyo e Londra. Sono queste le città che dettano le tendenze, che come sempre succede in questi casi, ha il suo programma TV di riferimento, Mixologist, su Real Time. Mi piace, sì. Ti senti il passion fruit sia al naso che in bocca? C'è l'americante che arriva dietro. Mi piace anche a me, ci vediamo dopo per la scelta finale. Grazie. Devi usare come stirrer un ramoscello di rosmarino. Già sto palpita. E quindi Luisa, ci hai detto numeri sull'aperitivo per concludere il nostro appuntamento con le tendenze. Vabbè, sono curiosa, sentiamo un po' quali sono questi numeri. Sì, perché come sempre i dati che arrivano dal mondo dei consumi fra le righe dei sondaggi raccontano molto di quello che facciamo ogni giorno in casa, con gli amici, con i parenti. Sentiamo ad esempio questa indagine col Diretti Censis. Quasi tre giovani under 35 su 4, il 71%, soprattutto nel fine settimana, partecipano al rito dell'apericena, sintesi perfetta tra aperitivo e cena, che del primo mantiene l'elemento socializzante e della seconda quanto basta per non far brontolare lo stomaco. È un fenomeno che coinvolge quasi 8 milioni di giovani, 1,5 milioni dei quali regolarmente. Dal nord, dove quello dell'aperitivo è un rito sociale antico, la nuova formula dell'apericena si è andata diffondendo ovunque nella penisola. In particolare i contesti metropolitani, Milano, Torino e Roma in testa, ma senza tralasciare le città più piccole, l'aperitivo e i luoghi in cui incontrarsi per farlo, sottolineano Censis e Coldiretti, sono diventati uno dei pilastri della relazionalità di persone dalle caratteristiche sociodemografiche anche molto diverse. Oggi a fare l'aperitivo mangiando stuzzichini sono 25 milioni di italiani, il 51% della popolazione, 3 milioni e mezzo dei quali regolarmente e 22 di tanto in tanto. Complice la crisi, l'apericena è diventata la strategia per contenere le spese senza rinunciare ad uscire con gli amici. Una formula utilizzata anche per le degustazioni di cibi, vini e prodotti tipici, che sono un'abitudine per 23 milioni e mezzo di italiani. E quindi, Maria Luisa, abbiamo sentito tutte le tendenze per questa settimana. Ci ritroviamo la prossima settimana sempre nel nostro Sabato del Villaggio, però l'appuntamento con te è domani alle 15 con Essere Avere. Adesso noi abbiamo una breve pausa, quindi direi che insomma ci andiamo a fare un aperitivo. Volentierissimo, andiamo. Grazie Marta. Il sabato del villaggio. Ecco qui l'ultimo blocco della seconda ora del sabato del villaggio, il sabato pomeriggio di Radio 24 che vi tiene compagnia con tutti i vostri acquisti mentali e non solo mentali. Lo abbiamo sentito adesso con Maria Luisa Pezzali, con la nostra esperta di consumi e nuove tendenze. Io adesso vi twitto i siti che ci ha consigliato Cristina Lazzati. Intanto abbiamo parlato di graphic novel e di fumetti. Cristian Goldoni in regia mi ricordava che si conclude domani a Lucca un appuntamento molto molto importante, Comics and Games, effettivamente sono proprio di tendenza. Adesso però c'è un altro degli argomenti di cui non si può proprio non parlare in questo periodo, perché abbiamo detto televisione, sì, ma niente come le serie televisive fa discutere in questo momento. Spesso sono molto più belle dei film, lo diciamo fino allo sfinimento. Siamo in tema di Halloween, chissà se lo festeggiate o non lo festeggiate, poco importante, se ne parla tanto e quindi entriamo un po' in atmosfera particolarmente inquietante. Per favore! Non farlo! Rick! Ti prego! Coraggio! Coraggio! Siamo non è questa fuori. La soluzione! Non è così che dobbiamo fare! Ti prego! Resta dietro di me! Andiamo! Inquietante, si capisce già che siamo in presenza di esseri sovrannaturali e io direi proprio che sono degli zombie, sono dei morti viventi, anzi dei morti che camminano. Ne parliamo con la più grande esperta di serie televisive che io conosca, la conoscete se avete ascoltato nell'ultima edizione il nostro RadioTube, che torna peraltro tra poco, speriamo che Daniele Bellasio sia in arrivo, torna tra poco RadioTube, ma cominciamo a parlare anche di televisione. Con le serie televisive ne parliamo con Stefania Carini. Buonasera Stefania. Buonasera, grazie del complimento esagerato al solito. Ma io sono una donna un po' esagerata. Ho detto buonasera perché sono già le 16:47 sì, e ormai l'ora dell'aperitivo abbondante, perché io apericena non riesco a dirlo, diciamo aperitivo abbondante. Aperitivo abbondante, però tolgono un po' l'appetito questi. Allora Stefania Carini, diciamolo, che è critico televisivo di tante testate, di Corriere.it, ma anche di Europa, e ricordo l'hashtag Io sto con Europa, perché è una testata, certo, che sta vivendo momenti difficili e noi vogliamo molto bene a questa testata. Era un estratto da The Walking Dead, tra l'altro io sorrido molto perché la voce del protagonista è quella di Cristian Jansante, che è la nostra voce delle sigle di Radio 24, quindi mi immagino sempre che poi dica anche il sabato del villaggio, invece no, sta parlando di zombie, anche, anzi di Walking Dead, serie di grandissimo successo visto che siamo in giorni a Halloween e dintorni. Stefania, intanto ti chiedo questa serie di cosa parla? Cosa dobbiamo sapere di The Walking Dead? Allora, prima di tutto dobbiamo sapere che anche questa serie è tratta da un fumetto, da un fumetto di successo, e quindi ritorna il fatto che, insomma, i fumetti in questo periodo ritornano, sono importanti, sono sempre stati importanti per il nostro immaginario. Cosa racconta? Racconta di un'apocalisse zombie, racconta di questo Rick, un poliziotto, che si sveglia dopo essere stato in coma per alcuni mesi a causa di uno scontro a fuoco e si ritrova nel bel mezzo di un apocalisse zombie. Da qui in poi, ormai siamo arrivati alla quinta stagione, si ritrova a dover recuperare la propria famiglia, sua moglie, suo figlio, e insieme ad altri sopravvissuti il problema è proprio quello di andare avanti e di come andare avanti, perché il titolo forse secondo alcuni non fa riferimento agli zombie, ma ai morti che camminano sono i nostri sopravvissuti, sono i nostri protagonisti che progressivamente devono riuscire, come dire, a non diventare zombie, ma non nel senso solo concreto, ecco, il problema qui è la sopravvivenza dell'umanità stessa, della civiltà, perché mano a mano che è andata avanti la serie ci siamo accorti che il vero problema non sono i mostri, ma sono quello che gli altri esseri umani sono diventati per sopravvivere e che spesso sono diventati peggiori di tutti i mostri dell'horror che conosciamo, proprio perché saltate le regole della convivenza civile, ecco che ci troviamo davanti a un'umanità non più umana, e i ricchi e i suoi devono invece continuare a portare avanti la civiltà. Insomma, è un horror che però si colora anche di ben altre atmosfere e significati in questo senso. Direi che fa abbastanza paura, non lo consiglierei ai bambini, diciamo dai ragazzi in su, ragazzi anche, grandi in su, ecco. Assolutamente, tra l'altro è anche c'è un'escalation continua proprio delle nefandezze che non sono appunto quelle degli zombie, ma spesso sono quelle degli altri esseri umani. La cosa interessante però è che io la consiglierei, ed è molto vista anche dalle donne, perché sembra un genere al maschile, ma siccome questa serie tralascia in parte l'azione tipica dell'horror e si concentra molto sulle dinamiche dei personaggi, ecco che acchiappa molto il pubblico femminile che ama appunto le trame tra i protagonisti, le loro relazioni, come cambiano nel tempo e come evolvono i personaggi. Altri consigli su questo genere? So che c'è un'altra serie che è molto amata dagli amanti di un certo tipo di brivido. Sì, c'è questa serie francese che è stato il successo europeo degli ultimi anni, che è arrivata finalmente anche in Italia su Sky Atlantic, che è Le Revenant, e anche in questo caso abbiamo dei morti che improvvisamente tornano in vita in un piccolo villaggio francese. Siamo più dalle parti del mistero, ecco, non dell'horror, e in questo caso l'angoscia è molto più intima, cioè si trovano in pratica le famiglie, i sopravvissuti, chi era rimasto si ritrova a dover rifare i conti con persone che ormai dava per morte, e quindi c'è, come dire, questo piccolo paese che deve fare i conti con se stesso, con ogni individuo, con il familiare che aveva, come dire, lasciato andare in qualche modo, che invece adesso è di nuovo davanti a lui, e quindi deve, come dire, ricominciare da capo e capire questo cosa effettivamente significa per se stesso, per i legami familiari. Atmosfere dark, molto dark, però abbiamo parlato di Fox con Walking Dead, di Sky Atlantic con Le Revenant. Per chi invece avesse, ad esempio, Mediaset Premium, tutte le piattaforme? E qui, a livello sempre restando un po' sul tema dark e sul tema fumettistico, è partito questo Gotham, molto interessante, sta avendo anche un buon successo negli Stati Uniti, che racconta Batman quando non era ancora Batman, insomma Bruce Wayne è ancora un bambino di 8 anni, piccolo, appena subito il lutto dei suoi genitori. Il protagonista in questo caso è Gordon, il poliziotto, e vediamo tutti i personaggi, i mostri mostri futuri della Gotham futura, vediamo quello che erano prima e quindi scopriamo il loro passato, ed è un gioco narrativo e seriale molto interessante. La serie è anche fatta molto bene e in un certo senso può unire amanti ormai adulti di quel fumetto e di quella saga che abbiamo visto anche al cinema con invece ragazzi più giovani che magari conoscono Batman per i film di Nolan e non per quello di Tim Burton o per i fumetti antecedenti. Giovani magari non giovanissimi, perché un po' di non violenza c'è, cioè, magari no, ecco, accompagnati dagli adulti. Abbiamo ancora un minuto invece per consigliare qualcosa sulle reti generaliste, Stefania? Io consiglierei di sicuro quello che ormai è un classico, che è The Big Bang Theory, che va bene davvero ormai per tutta la famiglia, anche perché in fondo ormai siamo un po' tutti nerd, no? Siamo la generazione che è genitore adesso, è un po' il nerd ancora degli anni Ottanta, e i ragazzini di adesso amano in alcuni casi gli stessi film dei genitori, ad esempio la saga di Star Wars o Star Trek, vedi appunto Zero Calcare, quindi insomma forse la serie che unisce di più in questo momento. Beh, insomma alla fine abbiamo tutto si tiene, abbiamo citato Zero Calcare di cui abbiamo parlato con Alessandra Tedeschi. Stefania, io spero di ritrovarti ancora con i tuoi consigli sulle serie televisive del momento, anche perché mi piacerebbe poi parlare prima o poi con te di Downton Abbey, perché anche quello benissimo. È un po' sulla bocca di tutti, col problema del cane, col nome sbagliato, va bene, ne parleremo. Grazie a Stefania Carini di essere stata con noi, chiocciola Stefania Carini se volete trovarla su Twitter. Noi ci ritroviamo tra poco per la terza ora del Sabato del Villaggio, ma io aspetto Daniele Bellasio, perché tra poco sì, il Sabato del Villaggio è il Sabato del Villaggio, ma cambiamo studio, cambiamo sigla, cambiamo un po' tutto, perché sta per arrivare Daniele Bellasio, il nostro tradizionale e di grande successo, dobbiamo dircelo, appuntamento con RadioTube. Ora la linea va al giornale radio.